grazie, benvenuti a tutti e a tutte, e appunto ringraziamento prima alla Terra Trema che ci ha invitato e ci ha un po' stimolato a creare questo incontro, questo dibattito, e grazie a Dario D'Alessandro, a Matilde Cassani che appunto hanno accettato l'invito. La cosa che noi appunto a nome di Mille Piani ci interessava, ci teneva porre al centro di questo dibattito, e sarà appunto un po' attorno al quale ruoterà la mia brevissima introduzione, è quello di cercare di interpellare questa la storia della ricostruzione che è avvenuta dopo il terremoto in Abruzzo come un'occasione per porre al centro del dibattito innanzitutto alcune questioni che vadano oltre quello che è stato il clamore da un lato e l'oblio dall'altro. Perché appunto se vogliamo in qualche modo descrivere quella che è stata la deriva mediatica rispetto al terremoto, forse io vedrei questa duplice polarità, no? Da un lato un grosso clamore e da un lato però anche un oblio di tutta una serie di esperienze, di percorsi soggettivi che invece si sono creati e stanno intessendo quella che è anche la ricostruzione. Quindi cogliere questa occasione come un'occasione di senso che possa far emergere quelli che sono gli aspetti che potremmo definire, non so, immateriali, relazionali, che ci sono all'interno di un progetto di ricostruzione. È come se un po' volessimo ribaltare quella che è la sequenza classica che si pensa in queste occasioni, ovvero che c'è stata la distruzione di uno spazio, di un territorio, di alcuni paesi, di una città, e quindi si necessita una ricostruzione, una costruzione per accedere ad un nuovo abitare, fondamentalmente. Il porre l'accento su quelle che sono le dimensioni di senso che non si vedono in qualche modo in un progetto di ricostruzione e che non è immediato che ci siano, perché un progetto di ricostruzione calato dall'alto, ad esempio, non le coglie queste dimensioni relazionali, le perde. Ma se noi vogliamo mettere al centro questo immateriale, che si chiamino relazioni, che si chiamano culture di un luogo, che si chiamano sogni di un luogo, desideri di un luogo, forse vale anche la pena ribaltare questa sequenza. Forse prima c'è l'abitare, c'è un desiderio di abitare e quindi poi c'è un costruire. Ecco perché abbiamo invitato anche Matilde Cassani, che ha lavorato in Sri Lanka e nella ricostruzione post-tsunami e poi ha fatto una ricerca su questo suo lavoro, e questa ricerca si basa proprio sul tentativo di leggere quelli che sono stati i rapporti e i non rapporti tra i progetti di ricostruzione delle ONG e tutta la dimensione culturale, in particolar modo declinata nei suoi vettori religiosi, che caratterizzano lo Sri Lanka. Lo Sri Lanka che appunto che è una terra con una composizione etnico-religiosa estremamente complessa, che è il precipitato, la cristallizzazione di almeno 20 anni di coesistenza, di conflitto soprattutto. Quindi come la costruzione in caso di emergenza ha in qualche modo interagito con quello che era il senso dell'abitare che la precedeva, e se questo senso dell'abitare riesce ad emergere e in qualche modo a diventare materia del progetto di ricostruzione. Ecco, io credo che forse la cosa davvero preziosa che i vostri racconti di questa sera possono portare va in questa direzione. Posso sbagliarmi, ma poi magari adesso vedremo anche nel rapporto con voi come la discussione si struttura. Io darei la parola prima a Dario, che è arrivato un po' trafelato, però forse ha bisogno anche di scaldarsi, non lo so. Quindi prego.